Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Polemica sterile, all'aeroporto, i controlli, si sa che bisogna togliersi la cintura, si sa che bisogna togliere il cellulare, perché tutte le volte c'è sempre il solito che arriva, ups, e poi ups, ups. È polemica sterile, eh? Yeah, Alessandro Milan ha dice sempre la so, e la mia domanda è sempre che è per Paroni. Ma non ti metta bravona sta prissacud? Eccoci qua, si è capito tutto delle polemiche sterili, soprattutto credo che sia il nostro amico Irzak da Santeramo, ricordiamo, albanese di origine, ma mi sembra italianissimo, non pugliesissimo. Non mi sembra fosse albanese, però. No, l'accento, forse no. Ce l'ha mandato in albanese, forse stavolta. Ah, la spiegazione del perché non abbiamo capito niente è questa. È questa. Sono le 9:10, i funamboli sono tornati con il solito schieramento di Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Emilia Ranucchetti in redazione. Oggi abbiamo Andrea Roccabella in regia qui a Milano, abbiamo rottamato l'alpino Peter Bescapè. Dove l'avete buttato? Non lo so, è stato buttato in una perché discarica, lavora a Natale, quindi ha deciso di prendersi le ferie anticipate. Esatto, festeggia il natalino oggi. Oggi è Natale per Bescapè e invece qui ci abbiamo un ridente Alessandro Chiappini. Molto bene, molto bene. Cara Veronica, io lo so che tu ieri eri incollata a vedere Lilli Gruber. Che giornata a vedere che è il tuo stata direttore Travaglio. Ieri mi sono fatta proprio veramente un'endovena, sì. Perché mi sono fatta prima la Bocchi dalla Gruber e poi Renzi da Formiglia. Mamma ieri, guarda, mia, che serata, Dio che serata. Straordinaria, due puntate di Designated Survivor che sono andate via lisce a casa mia. Allora, proprio esatto. Tra. Proprio, immagino, infatti ho detto adesso cerco un conforto, gli mando un messaggino per parlarne un attimo. Devo dire, la Boschi della Gruber l'ho vista anch'io un pezzettino. Quando mi sono accorto che c'era Scanalando. Stava per disgrazia, è successo. Non lo sapevo. E quindi quando l'ho intercettata, poi l'ho vista. Quando l'hai incrociata. Sì. Allora, va bene, noi non ci ripeteremo. Ne hanno parlato a lungo adesso Oscar e Telese, quindi non ci ripeteremo su cose già dette. Io ci tengo a dire un'unica cosa che mi ha veramente molto infastidita ieri della puntata e dell'atteggiamento generale. Mi sembra che il tema della questione sia la faccenda banche, comunque la si pensi, qualunque sia l'atteggiamento che si voglia avere rispetto a questo. E perché la Boschi si sia occupata di queste questioni, se le competesse o meno. Che il dibattito si focalizzi attorno al fatto che gli attacchi le vengano rivolti sulle banche, su Etruria, sul suo essere stata omissiva rispetto a questi incontri, perché è donna e per una questione di genere, perché se lei fosse stata un uomo questi attacchi non li avrebbe ricevuti, ecco, io la trovo veramente una cosa da donna profondamente fastidiosa. Ti ha dato fastidio questa cosa? Perché che ha detto, se c'è un modo di sminuire... Se fossi stata donna... se c'è un modo di sminuire seriamente tutta quella che è la questione sulla parità di genere, sulle battaglie legate al femminile, è quella di utilizzare, strumentalizzare la questione dell'essere attaccate in quanto donne quando ci sono delle situazioni come questa e lo si usa come apologia. Allora, ecco, questa è una cosa che da donna mi offende. 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Abbiamo anche il solito numero per i WhatsApp, ovviamente. Aspetta, cioè dovrebbe esserci però 3, ora poi mi ero accalorata, quindi 349 238 6666. Ma non ti devi accalorare. Allora, no, questa cosa mi fa accalorare. No, ma non ti accalorare. Tu sciocchina, non ti sei accalorata? No, a nome del genere, non no. Non mi accaloro. Devo dire, oggi ancora Massimo Gramellini torna invece su questa vicenda che a me davvero colpisce, che è il processo a Marco Cappato, che c'è a Milano, cos'è, non so neanche qual è il reato, istigazione al suicidio, insomma la vicenda di DJ Fabo. Per la seconda volta la PM, come ha ricordato Oscar Giannino, in lacrime, la pubblica accusa, vi rendete conto, in lacrime per la testimonianza di DJ Fabo proiettata in aula. È il processo, secondo me, più incredibilmente vergognoso che si sta svolgendo, cioè ce ne saranno tanti di processi, ma questo davvero lo trovo vergognoso alla Corte d'Appello di Milano, un processo per il quale peraltro la pubblica accusa aveva chiesto di archiviare tutto, poi si è proceduto per ufficio. Vabbè, lasciamo. L'unica speranza che c'è, Ale, è che anche questo sia propedeutico ad un percorso. Ieri, questo, se non altro, c'è stata l'approvazione di questa legge questo, sul biotestamento. Anche l'altra volta l'hai detto, ma secondo me, ripeto, a me non interessa il processo proprio, è buttare lì la mamma che deve piangere, una PM che giustamente butta qualcosa di sua umanità, evidentemente, in questo processo e piange, cioè, ma tutto per un'accusa che poi finirà in nulla, secondo me. Ma tu hai ragione, David. È chiaro che finirà in nulla. Io credo che Cappato lo faccia anche per questo lo ripeto, perché credo che l'obiettivo sia fare dei processi, certo, ma perché, visto che la politica ha ignorato la questione per troppo tempo, portandola così, facendola emergere in questo modo tramite le vicende giudiziarie, forse si riesce ad andare avanti e a rendere questo paese. Allora, sono le 9:15 minuti, abbiamo già dedicato tantissimo tempo e dobbiamo sempre correre. Allora corriamo con il primo tema, che è il tema del gioco d'azzardo legalizzato, perché diamo solo una cifra: si spende in media 4.400 euro nelle slot, in tutte. C'è una città, Prato, dove sale la spesa media di 7.821 euro. Chissà perché, vogliamo cercare di capirlo. E partiamo da qui. La verità rende liberi. Infatti, io tempo fa ho detto la verità alla mia compagna e oggi sono un uomo libero. Perché ci sono delle verità che non bisognerebbe dire. Io ho detto tre verità fondamentali. Allora, la prima è che ho un problema col cibo. L'altro problema che ho confessato, l'altra verità che ho confessato, è che sono un giocatore d'azzardo compulsivo. E poi c'è la terza, che mi vesto dai cinesi. Ora, io credo che per una donna il fatto che io mi vesta dai cinesi sia una cosa che è infierito di loro. Però di solito la galaverna, il gelo, si crea quando io ammetto in pubblico la seconda verità, cioè che sono un giocatore d'azzardo compulsivo. Cosa significa in parole povere? Che io non posso giocare a nulla che preveda l'utilizzo di denaro, perché altrimenti non riesco a fermarmi, non riesco a controllarmi. E allora l'unica soluzione, che parrebbe veramente l'uovo di Colombo molto semplice, è quella di non giocare a nulla che preveda l'utilizzo del denaro. Ma allora, la voce che sentite è quella di Daniele Racco, che è un volto noto, zelig, comico, attore, anche wrestler. Daniele Racco, buongiorno, ciao, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a voi. Ha scritto anche un libro, La gallina storia d'azzardo, sarà uno spettacolo tra poco, perché... Sì. I comici si ispirano alla realtà molto spesso. In questo caso Daniele Racco è stato un giocatore d'azzardo compulsivo. Allora, io sono un giocatore d'azzardo compulsivo in questo momento, fortunatamente da quasi 2 anni non attivo. Quindi perché lo sei ancora? Perché dici che latentemente lo sei rimasto? Perché in realtà è una malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'azzardopatia, ma la puoi fermare, chiaramente non puoi guarire, non c'è un vaccino, per cui io so che non devo giocare a nulla che possa scatenare in me la voglia di ricominciare a giocare forte. Beh, interessante questo. Ci puoi tradurre cosa significa... magari con un'immagine, con un racconto, essere un giocatore d'azzardo anche se non attivo, cioè a che punto sei arrivato, giusto per... Io sono arrivato al punto che era il mio unico pensiero sempre, in realtà è triste ammetterlo, però quando ero sul palco, che è poi la cosa che mi fa felice da sempre, era diventato ormai solo un mezzo per procurarmi i soldi da giocare. Ma perché davvero ero fuori controllo, senza controllo, una persona assennata, cioè non arriva a fare una cosa del genere, per cui è per questo che viene definito compulsivo, è per questo che viene riconosciuto come malattia. Cioè, è una dipendenza. Come l'alcol, la droga, assolutamente, come una totale a tutti gli effetti una dipendenza. Quando si smette, spesso in un primo periodo cioè, ci sono vere e proprie crisi d'astinenza. Io fortunatamente di poverità non ne ho avute. Il giorno in cui ho toccato il mio fondo e da lì ho deciso di confessare tutto, di liberarmi, di aprirmi e di smettere, devo dire che è stato veramente come bucare un palloncino. Io parlo per me, ovviamente. Ed esorcizzare tutto. Veronica, tu fai anche sì. Tu teatro, forse la forza, dico a Daniele Racco, ma anche a te Veronica, la forza della possibilità di andare su un palcoscenico, esorcizzare tutto raccontandolo, proprio raccontando, questo aiuta, no? Beh, magari, il teatro, no? Ha un valore terapeutico senza dubbio, nel senso che se non altro c'è la possibilità di, no, verbalizzare quanto accaduto, e può avere degli effetti benefici. Ma io ero curiosa di sapere, Daniele, come hai fatto a smettere? Cioè, che cosa è scattato, se intanto è dipeso da questioni contingenti esterne, tipo tra un po' devo vendermi anche, non so. No, devo dire che il problema economico, e ripeto, parlo sempre, non era così pressante da indurmi a dire devo smettere perché non c'ho più i soldi. No, era proprio che non riuscivo, davvero mi sono reso conto che non riuscivo più a controllarmi, mi sono reso conto che davanti a me c'erano due strade: o buttarmi da un ponte, e ci sono andato veramente molto molto vicino una sera, o davvero chiedere aiuto, perché poi questo è io quello che ho fatto. Io ho chiesto aiuto in prima battuta alla mia compagna, ho confessato assolutamente, ho detto io ho questo problema, non so cosa fare. E niente, e poi ho cominciato un percorso, insomma, che parte da una richiesta di aiuto, certo. Ma perché fino a quel momento anche le omissioni, le bugie, assolutamente, assolutamente. L'essere un mentitore seriale fa assolutamente parte della malattia, cioè, allora, menti prima di tutto a te stesso. No? Daniele, rimani con noi, perché allora ci ha colpito molto questa spesa media. Poi ovviamente quando si parla di questo, il gioco d'azzardo legalizzato è anche un'industria che dà molti posti di lavoro, ma non è questo il punto che vogliamo trattare. Ci ha colpito questo dato degli 7.821 euro di spesa media a Prato rispetto ai 4.400 di tutta Italia. Allora sì, abbiamo chiamato Marco Wong. Marco Wong è presidente onorario di Associna, è stato candidato anche in consiglio comunale a Prato e anche alle comunali di Roma. Marco Wong, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E perché abbiamo chiamato il presidente onorario di Associna? Perché è innegabile che a Prato ci sia una forte comunità cinese, lo sappiamo, e forse, chiediamo a Marco Wong, questo può incidere, perché nella tradizione cinese il gioco d'azzardo è un qualcosa che è abbastanza diffuso, o no, Wong? Ci sbagliamo? Sì, ci sono dei fattori culturali da tenere in considerazione. Cioè, intanto i cinesi in Italia vengono per l'80% da un'area ben specifica della Cina, e in cui c'è una forte propensione al rischio. Che è Wenzhou? Cioè, sì. Sì, vicino a Wenzhou, sì. E diciamo, in alcune situazioni questo qui si diventa, per esempio, una alta propensione all'imprenditorialità e a certi mestieri, insomma, in cui ci si mette molto del proprio. Però c'è anche il lato oscuro, nel senso che insomma, magari questa propensione al rischio diventa in molti casi appunto una propensione al gioco d'azzardo. Insomma, quindi potrebbe essere questa una lettura, non si vuole dare la colpa. No, ma quindi questo dato lei lo attribuirebbe alla presenza di una comunità cinese a Prato? Cioè, secondo lei si può leggere in quest'ottica? Diciamo che la comunità cinese di Prato è abbastanza grande, ma non così grande da aver attirato l'attenzione di studi specifici proprio sul gioco d'azzardo collegato alla comunità cinese. Diciamo così, a sensazione, poi da alcuni controlli che sono stati fatti, sì, insomma, probabilmente c'è una buona parte dei cinesi residenti a Prato che, insomma, che gioca alle slot machine e altri tipi di gioco d'azzardo. Effettivamente i dati sono altissimi, cioè si parla di 7.700 euro rispetto a 4.400 euro delle altre città in media, e di 800 milioni l'anno a Prato, 651 euro al mese per famiglia, che è una cifra che, insomma, è veramente ingente. Sì, purtroppo, insomma, a me capita di sentire delle storie insomma, che sono simili a quelle dell'attore che è intervenuto poco prima. Io stesso, per esempio, ho avuto un dipendente a cui avevo dato dei poteri di firma, quando poi mi sono reso conto che, insomma, aveva sempre bisogno di soldi e, insomma, poi ho scoperto che giocava alle slot machine ed era sempre, senza soldi. No, ma c'è da dire che questa cosa dei soldi, io, Daniele, perché c'è un bisogno continuo di soldi. Vabbè, tu essendo artista, poi nei momenti magari di picco, di successo, i soldi non mancano, ecco, e fortunatamente. Però per le famiglie comuni c'è sempre questa necessità di reperire soldi, ma soldi non soldi pochi, non spiccioli, ma una continua movimentazione di denaro. Sì. Questo problema come si ovvia questa necessità? Intanto i soldi, se si vogliono trovare, si trovano. Ho capito. E questo è un po' come tutte le dipendenze, credo. Sull'albero, no? Non crescono, insomma, come chi ha bisogno di drogarsi. No, dico, ma sull'albero non crescono, a parte in maniera illegale. Però, non lo so come dire, non credo che sia questo sostanzialmente il punto, nel senso che, ripeto, i soldi, se si vogliono trovare, si trovano, e quello che ha detto Veronica è assolutamente giusto, nel senso che come li trova il tossicodipendente senza lavoro, li trova anche il giocatore compulsivo. Quindi c'è chi riesce ad avere accesso al denaro in maniera, diciamo, legale, e c'è anche chi arriva, per esempio, a rubare nell'azienda in cui lavora, per esempio a vendere l'oro di famiglia, per esempio a indebitarsi in maniera più o meno legale. Ci sono anche delle persone che ti prestano soldi davanti alle case da gioco e non lo fanno certo per carità, ecco. E non lo fanno certo perché ti vogliono bene, insomma. È ovvio. Ma senti, ma questo spettacolo cosa diventerà? Perché addirittura ne hai scritto un libro, ripeto, La gallina, allora, la storia d'azzardo. L'embrione è stato il pezzetto che avete mandato prima, che per me quello è stato un piccolo traguardo, nel senso che quando io ho smesso, così ci capiamo, no? Anche se non è la terminologia giusta, però diciamo così, almeno diamo un momento temporale, dentro di me ho detto: il giorno in cui io riuscirò a ridere, a far ridere su questa cosa, insomma, sarà un modo di esorcizzarla. Sarà un modo importante, no, di dire sono sulla strada giusta. E poi da lì mi è venuta voglia di scrivere. E allora ho scritto, non un libro comico ovviamente, è un romanzo breve, dove ho raccontato la mia storia e quella di altri personaggi inventati. Che decidono di aiutarsi uno con l'altro a vincere questa cosa qui. E poi questo libro qui, che chiaramente non ha una casa editrice, perché la storia sarebbe lunga, ma diciamo che non ha una casa editrice, ho deciso di portarlo a teatro, quindi di narrarlo sul palco, e ci sarà il debutto il 18 marzo qui a Genova al Teatro Garage. Va bene, io credo che se tutto questo, parlarne, può aiutare anche una persona sola, siamo sulla strada giusta. No, Daniele, mi chiedevo una cosa, per realtà non so quanto ci sia risposta. Mentre il tuo è un caso chiaramente estremo, no? Parossistico, perché c'era una dipendenza vera e propria, chissà se in questi dati, e lo chiedo anche poi appunto a Marco Wong, di giocatori, tutti sono realmente dei giocatori ammalati con una dipendenza reale, o quanto ci sia anche ormai un abuso di gioco per coloro che lo fanno così un po' in... come dire, con un'attitudine che non è un'attitudine realmente compulsiva. Si chiamano giocatori sociali. Sì. Esatto. Ma, no, ma, infatti, cioè, ma ci saranno molti che, io voglio sperare la maggior parte, che mantengano il gusto anche di giocare, senza demonizzare niente, il gusto di giocare a una cosa legale, senza sconfinare nella ludopatia, nella malattia, nella dipendenza, no? Che talvolta lo fanno anche perché è semplice farlo, perché è a portata di mano, perché è in un contesto in cui appunto magari si sta per altre ragioni, e quindi lo fanno senza arrivare alle estreme conseguenze. È così. Cioè, indubbiamente nella spesa pro capite ci saranno anche conteggiate queste persone, che però si espongono a un rischio enorme. Certo, tu dici uno può iniziare e poi scendere in un piano inclinato verso un paragone molto estremo, ma magari non tutti si ammalano di leucemia se si espongono alle radiazioni. Certo. Però tu lo faresti. No, è chiaro, tu dici meglio evitare. No, io non sono no, senza demonizzazione, non sei un esempio per non dire sono, meglio evitare. Non sono un proibizionista, sì. Dico subito, faccio questa premessa, sì. Quindi su nulla. Però secondo me bisogna regolamentare molto, orari, distanze e tutto questo. Poi nei vari comuni con ordinanze ci sono tipo questi centri lontani dalle scuole, troppo poco secondo andrebbero me, in maniera molto confusa. Allora, Daniele Racco, noi ti ringraziamo, così come Marco Wong, ripeto, presidente onorario di Associna, poi se volete... Ah, ecco, Daniele, c'è il tuo sito, vuoi dirlo per i dettagli? Sì, magari... danieleracco.com, lì trovate molto tutto. Semplice, così si trovate anche le date. Acquistare il libro da lì. Va bene, trovate anche le date dello spettacolo. Vi andremo ringraziamo, a vederlo. Vi ringraziamo. C'è Antonio che ci chiama dalla provincia di Monza e Brianza. Quando un tempo si diceva provincia di Milano, che bello. Invece c'è la provincia di Monza e Brianza, che poi le province sono scomparse, ma invece no. Antonio, buongiorno. Eccomi, sì, buongiorno. Volevo dare un piccolo contributo. Io sono un ex bancario, sono un volontario di una fondazione a Milano che si occupa appunto di persone in crisi da sovraindebitamento per aver fatto acceso troppi prestiti, finanziamenti, eccetera. Sì. E nella mia esperienza, noi spesso incontriamo persone che sono cadute nel sovraindebitamento per il problema della ludopatia, del gioco. Allora, io volevo fare due osservazioni molto semplici e veloci. La prima, che secondo me lo Stato sta facendo troppo poco per combattere questo fenomeno, anzi, per troppo tempo ha, da un certo punto di vista, favorito anche l'espansione. Secondo me, anche in maniera proprio... criteriata, perché poi i costi sociali che lo Stato stesso deve affrontare per queste persone in difficoltà sono enormi. Ma guardi, è il solito gatto che si morde la coda. Da una parte si guadagna in tasse, lo Stato guadagna in tasse, poi certo si è riconosciuta la ludopatia, quindi bisogna che il sistema sanitario pubblico gestisca questo. Anche se pare che le entrate per l'erario non siano poi altissime rispetto alla quantità di soldi spesi nel gioco. Ogni tanto poi cosa fanno? Aumentano le tasse, quindi qui ci vanno di mezzo quelli che nel settore, le imprese che nel settore si ritrovano a dover pagare più tasse. Alla fine lo Stato è quello, è il banco che vince quasi sempre. E Antonio sicuramente nota questo comportamento un po' ambiguo. Tanto possiamo dirlo, Veronica, lo Stato non ha una faccia, no? Lo Stato ha il comportamento ambiguo, non ti accusano di niente. Accusiamo lo Stato, facciamo come Oscar Giannino. Accusiamo lo Stato. Vuoi urlarlo tu, Stato ladro, come Oscar? Stato ladro! Va bene? va bene, guarda che questa la tagliamo, la diamo a Oscar. Dai, abbiamo la versione femminile. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi riprendiamo gli ascoltatori, c'è Giuseppe da Milano, parliamo di scuole virtuose nel risparmiare sul cibo sprecato, quanto cavolo di cibo buttiamo via, io sono il primo colpevole, lo ammetto, in tutte le case buttiamo via del cibo. Però a guardarti non si direbbe. Questa proprio è venuta così. Ma niente, non ce l'ho fatta, spontanea. Perdonami, tento di tenermi. Perché mica butto via i gelati. L'insalata, le verdure lesse, come i bimbi. Sì, esatto. Tra poco, maledetta te. I funamboli. Veronica, potevi risparmiartela questa mattina la critica sulla Boschi. Vorrei vedere te a un confronto televisivo con Marco Travaglio, che gioca a fare Torquemada De Niasri. Diciamo cazzate, Veronica, che l'attacco è perché è donna, per favore. Ecco qua, abbiamo scatenato replico. Il putiferio. Replico, lascio andare. lascia andare. Ma no, ma lascia andare, sono i nostri ascoltatori, dicono quello che pensano. In un senso, nell'altro. L'attacco è perché donna, indubbiamente. L'attacco, infatti, tutti donna. I problemi di Banca Etruria nascono, e tutta è donna, la questione perché nascono perché è donna. Sì, è indubbiamente perché è donna. Oh, c'è Giulia dalla provincia di Padova che ci chiama. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Ecco, io volevo dire questo, occupandomi anche di dipendenze, che la ludopatia non è che sia un'invenzione, esiste veramente, rovina le famiglie, rovina la persona, e si fa troppo poco per limitare. No, e ma per... infatti non è un'invenzione, è stata riconosciuta, no, ne abbiamo parlato. Certo, certo, ma voglio dire che è un po' come l'alcol, no? Certo che c'è un bere sociale, e l'alcol non è che si può proibire perché fa parte della nostra cultura, come il gioco, però è stata troppo diffusa. Mm-hmm. Non ci sono misure di contenimento, sono troppo vicine alle persone, cioè entrano nella vita, insomma, delle persone di tutte le categorie sociali. No, perché certo, abbiamo veramente una, e sicuramente lo Stato ci, come si è detto prima, ci guadagna, forse non tanto, ma infatti è quello che colpisce, che da una parte lo Stato ci guadagna con le tasse, dall'altra parte poi deve gestire il sistema sanitario pubblico, quindi con le tasse nostre, con i nostri soldi, i ludopatici. È un po', ma poi c'è un'ambiguità, un conflitto di interessi dello Stato, che appunto da un lato ha sostenuto che fosse un modo di ridurre la criminalità, quello di gestirlo, e poi dall'altro lato appunto si trova ad esserne diventato involontariamente promotore. Comunque, con i nostri ascoltatori che continuano a chiamarci all'800 24 0024, vogliamo anche introdurre la nostra prossima funambola, perché ecco, si diceva, e Veronica non ha risparmiato la battuta a me, ma si spreca molto cibo. Adesso non abbiamo le cifre esatte, ma sono sempre milioni e milioni di euro. Sono 300, nelle mense, per esempio, sono 360.000 euro al giorno di sprechi. Capite? E nonostante pare che l'80% degli alunni non abbia accesso alla mensa, quindi essendo un numero ridotto di allievi che accede alla mensa, comunque sono questi gli sprechi. E nelle scuole il 22% dei pasti vengono buttati. Sì, c'è da dire una cosa, perché molte persone lo diranno, i genitori lo sanno, in alcuni casi i cibi delle mense scolastiche fanno schifo. E dico la cosa che dal punto di vista pedagogico si insegna ai bambini a non dire, ma non si dice mai del cibo che fa schifo, no? Però proprio la qualità è sotto la media, ecco, sotto la media. D'altra parte invece molto si spreca per abitudine, anche per brutta abitudine. Non è così? Non è così, o meglio, stanno facendo di tutto perché non sia così. In una scuola, i bambini della scuola elementare di Rio Crosio di Asti. Stefania Malgari, buongiorno, è insegnante. Buongiorno a voi. Insegnante, avete vinto Scuole del Non Sprecare come riconoscimento. Che fate in concreto? Sì. Cosa vi siete inventati per ovviare al problema? Buongiorno, buona giornata a tutti innanzitutto. Sì. Cosa ci siamo inventati? Allora, praticamente gli insegnanti, i bambini stessi, insomma, erano stupiti di tutto il cibo che avanzava nei piatti delle mense quando terminavano il pasto. E allora alcuni colleghi virtuosi hanno cominciato a pesare letteralmente questo cibo che avanzava, che rimaneva nei piatti, fino ad arrivare ovviamente a delle cifre notevolissime di spreco. Allora, il percorso è stato lungo anche perché è particolarmente delicato per via della normativa che gestisce proprio il pasto già cotto, il trasporto e il mantenimento delle qualità organolettiche. Però vi dico nel concreto il progetto che si sta realizzando dopo anni di continua ricerca e di supporto anche normativo, perché poi l'abbiamo trovato. Praticamente il cibo viene sprecato nella misura in cui passa dai carrelli della ditta che lo cucina al piatto. Quindi abbiamo compreso che il nodo era gestire questo passaggio. Cioè? Allora praticamente succede questo. Quindi lo spreco non avviene dopo, cioè quando è distribuita la porzione? È sì, appunto, bisogna evitare che venga distribuita, cioè nel momento in cui arriva sul piatto del bambino il cibo ha già perso la qualità, è già un cibo che viene considerato consumato e non adatto più al riutilizzo. Ah, bisogna andare alla fonte, cioè bisogna far arrivare sul piatto solo quello che si sa che i bambini consumano. Praticamente avviene questa modulazione, cioè io sottolineo che è un progetto proprio collegiale, perché ci sono tante parti che intervengono e se mancasse una sola delle pedine non si potrebbe realizzare. Per cui ci sono le inservienti della mensa, c'è il comune che ha trovato un appoggio anche normativo, sia con una legge nazionale che con una legge regionale, e poi c'è il contributo grandissimo dei volontari della Caritas. Praticamente cosa succede? Che il bambino, che ovviamente può mangiare, mangia, non si alzano mai i bambini con la fame dalle nostre mense, ci mancherebbe, però oggettivamente può avere un cibo che gradisce di più o gradisce di meno, per cui quando, pur facendo una base di educazione alimentare per cui tutto si assaggia, si cerca però di lo sceglie una varietà, si modula un pochettino la porzione. È interessante, cioè non è la mensa che il bambino arriva lì e trova 20 cose, dice non mi piace questo, cioè sa già per tutto questo sistema che troverà qualcosa che gli piace o le piace. Noi abbiamo il classico, i nostri pasti sono supervisionati chiaramente dai nutrizionisti dell'ASL, per cui anche gli abbinamenti sono controllati e vigilati, ci mancherebbe. Però in qualche modo corrispondono anche al gusto del bambino, in maniera tale che questo non comporti il fatto che poi magari metà piatto viene buttato. Ma allora, per questo ci sono anche delle commissioni, dei comitati mensa che si aggiornano periodicamente per capire un pochettino se un cibo è piaciuto di più o è piaciuto di meno, giusto per capire e andare incontro al gusto dei bambini, pur considerando il fatto che ci sono degli alimenti, per esempio, che i bambini non amano per antonomasia, però si cerca sempre di inserirli nel menù in una varietà, ovviamente. Deve essere anche educativo e propedeutico a imparare tutto. Ci faccia capire con un dato se c'è. Questo è compito dell'ASL. Chiaro. Invece noi proprio praticamente facciamo, nel momento in cui arriva il pasto c'è la porzione del bambino che può essere anche un pochettino meno, anche non totale, e il bambino, se vuole, magari in assaggio una prima parte pensava non le piacesse ma in realtà gli piace, per cui può accedere a mangiarne ulteriormente, ma se per caso si ferma quella prima porzione, quello che non viene messo nel suo piatto rimane nel carrello delle inserienti. Allora ci faccia capire, professoressa Malgari, con questo sistema, se c'è un dato, quanto avete concretamente toccato con mano che potete risparmiare di spreco di cibo? Allora, un dato è, non la metterei nell'ottica del risparmio, nell'ottica economica, ma più nell'ottica solidale, umanitaria, nel senso che un dato è che l'anno scorso, grazie al contributo della Caritas, che ha individuato delle famiglie che abitano nei dintorni della scuola, famiglie meno abbienti, siamo riusciti a dare dei pasti a circa 4 nuclei familiari. Questo è interessante, però è anche minore lo spreco proprio della mensa, cioè sì, questo lo possono fare tutti, come dire, invece che buttare il cibo, darlo a qualcuno. Certo, tant'è che vorremmo proprio estenderlo anche a partire dal nostro circolo agli altri plessi, e ovviamente poter contribuire, il fatto che non venga sprecato il cibo ovviamente per noi. E c'è tutta una catena di coordinamento molto importante, perché i cibi praticamente devono essere consumati, devono essere portate alle famiglie entro la mezz'ora dal termine del nostro pasto. No, ma è interessante, cioè questa idea, meno si spreca e quello che rimane viene anche dato a persone che hanno bisogno. Mi sembra la catena virtuosa sarebbe la perfezione. Sì, e poi è molto interessante l'idea di fare dei piatti ad personam, quindi non andare a casaccio per poi sprecare il cibo. Esatto. Come fosse un po' al ristorante, cioè il bambino chiede quello, però poi lo mangia. Va bene, professoressa Malgari, la ringraziamo per essere stata con noi. Dobbiamo andare al traffico. Oggi il nostro funambolo Manera ha un pochino di febbre, ci ha abbandonato, ma domenica sarà a Platone. Si è abbalato, si è preso il raffreddore. Però, tutto il testosterone Esatto. Oggi ha avuto una botta di testosterone. Però sarà con noi. Vecchio mandrillo. No, smettila, sarà vecchio forse. Sarà con noi comunque tra poco in una versione dei suoi vox, i suoi vox populi, tra poco. I funamboli. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. Devo dire, Veronica, Veronica, che non hai detto nulla del nuovo caso Donnarumma in questi giorni. Mi interessa il tuo parere, il tuo editoriale sul caso Donnarumma. Ho il tragico sospetto di essermi distratta sulla seconda parte del caso Donnarumma. No! Perché no? Ieri anche Elisabetta Fusconi, la disperata, fa: mi fate un riassunto. Dice: no, no. Ti ricordi Donnarumma? L'ho seguita. No, attenzione. Infatti, ti ricordi Donnarumma? E già Elisabetta Fusconi guardava con lo sguardo vago. Perso e guardava dall'altro lato. Donnarumma, quest'estate il contratto. No, ma io sono arrivata anche adesso al fatto che ha detto che ha dovuto firmare sotto pressione psicologica, non era sereno. Non l'ha detto. No, mo l'ho detto io. Non l'ha detto la versione, appunto, che oggi scrive una lettera a tutti i tifosi del Milan, dire: non ho mai detto una cosa del genere. Questo è successo dopo che come il caso Boschi, l'ho in curva detto, gli hanno fischiato. Non l'ha detto. L'ha detto o non l'ha detto? Ma Donnarumma Ghizzoni l'ha incontrato o no? Non lo so. Ecco, effettivamente forse è Donnarumma che ha incontrato Ghizzoni, non lo so. E la Boschi in porta? E la Boschi in porta? Non lo so. Potremmo fare sto scambio. Siamo impazziti. Allora, Leonardo Manera non c'è, oggi un pochino di febbre, ma tra poco sentiremo i suoi vox. Prima dobbiamo dire che Maurizio da Milano, Massimo da Vimercate, Simone da Milano e Umberto da Milano, guarda un po', tutti allora... da Milano sono i vincitori e domenica saranno a Milano al Teatro Manzoni. Cosa si inventano di Milano pur di non pagare? Allora ragazzi, vi spiego, quando vi dice per favore mettete la città e insiste, è perché se voi scrivete Catania non vi darà il biglietto, dunque allora... voi mentite, dite tutti Milano e poi vediamo come fare col biglietto. Domenica alle 20:45 Platone, la caverna di informazione al Teatro Manzoni di Milano alle 20:45. Venite, c'è anche Giuseppe Cruciani, c'è Leonardo Manera, ci sono io incredibilmente e va bene. Però sei dovuto dire da solo. E c'è Alessandro Milan. Però smettila, il nostro Leonardo che oggi non è qui con noi, però ci ha voluto lasciare un piccolo vox sul Natale. Passeggiava per Corso Buenos Aires? Ovvio, sempre lì per Corso Buenos Aires a io chiedere. Io ci voglio andare. Ma che Corso Buenos Aires? Ma voglio andare con Leonardo a fare i vox popoli a Corso Buenos Aires. A chiedere se questo Natale l'arrivo dei parenti porterà gioia, o il passare il Natale con i parenti porterà gioia oppure dolore. Senti un po'. Dolore. Sta per arrivare Natale, vediamo se per i cittadini milanesi Natale coi parenti è un piacere oppure una grande seccatura. Secondo lei il Natale coi parenti è bello o è una seccatura? Devo dire proprio quello che penso. È una seccatura? No, è bello. Il Natale coi parenti è bello o è una seccatura? Non arriva Natale, no. No, è per sapere, insomma, se lei trova, le piace vedersi con tutti i parenti oppure ogni anno è sempre più... Io non ho tutti i parenti, io ho un bel gruppo mio. Di nipoti, tutti i nipoti? Due figli, cinque nipoti, due pronipoti. E cucina lei? No, mi aiutano, dai, io faccio le verdure un po'. Fa le cose meno pesanti, però quando li vede arrivare dice: che seccatura, me li trovo ancora qui questi. No, perché vuol farmi... Li odia. No, non li può vedere i suoi nipoti. Conosco lei. Che farebbe tipo, volentieri a meno. Si è pentita di aver fatto i figli per aver poi i nipoti in mezzo a... No, guai. Sono 30 anni che sono sola, dai. Ha già preso i regali per i nipoti? Adesso vado a prendere un petto di pollo per farlo a un nipote che lo vuole. E basta. Con famiglia. Con famiglia. Cioè? In che senso? Problemi con famiglia. Tu hai problemi con famiglia? Sì, famiglia di merda. Famiglia, ce l'hai di merda. A Natale sei contento di continuare a stare con la moglie o vorresti liberarti? Sì. Anzi, siamo sempre divisi. Quindi vorresti... siete sempre divisi, come mai? Perché vivete... per lavoro. Lavoro. Quindi... Ecco perché dura il nostro matrimonio. Perché non vi vedete mai? Perché ci vediamo poco. Avete anche rapporti sessuali con altre persone? No! Qualche volta è capitato. No, dai, ma piano. Con i caloriferi. Sì. Ti trovi meglio con lei o con un calorifero sessualmente? Ma il calorifero sta più zitto. Scusi, arriva il Natale. Lei è contento di cene e pranzi con i parenti o sono una grande seccatura? Vaffanculo. Vabbè. È la voce del popolo. C'era uno straniero soprattutto che era molto contento di passare con la propria famiglia. Era molto contento. Però anche il rapporto sessuale con il calorifero non era niente male, eh? C'è Mariella da Bologna. Buongiorno Mariella. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno Veronica. Dunque, allora io volevo ringraziare Veronica perché ieri sera, quando appunto ho sentito la voce, sono letteralmente saltata sulla sedia e mi è scappato uno schifosa. Beh, adesso, non è bello, no, lo so, non è bello, questo no. Non è bello, però lei ha fatto un affronto profondo a me. Quindi che uno debba sempre dare l'altra guancia mi sembra eccessivo. A me, caso, a me in lei... quanto donna? In quanto donna. E certo. Chiaro. Questo. E certo. Cioè vuol dire il fatto di dire sono attaccata come donna le ha dato fastidio, Marina. Perché era un post-it messo lì a caso. Certo. Quindi. Mm. E soprattutto lei avrebbe il potere di una televisione e io ero nella mia cucina con un boccone in bocca. Che neanche di traverso, vabbè, una cosa, non la poteva accusare di addirittura di vabbè, insomma. Perché comunque, dalla gruppa non si può telefonare. Le ha dato, le ha dato molto fastidio. Mariella, grazie. Allora, vogliamo chiudere la prima ora, Veronica, con rinnovando l'appello che qui a Radio 24, qui ai Funamboli, abbiamo fatto perché per questo professore iraniano che è stato condannato a morte perché accusato di essere una spia di Israele. Esatto, non ci interessa la questione processuale, ma la condanna a morte, almeno personalmente, sì. Oggi la moglie di questo professore viene intervistato da Repubblica, fa un appello a Federica Mogherini di intervenire perché venga commutata la condanna. Noi abbiamo intervistato qualche giorno fa, ricordate, la figlia Amitis, e vogliamo anche oggi, perché sia un po' sì un'ossessione, un mantra, rilanciare questo appello della figlia. Sì, tornare a parlarne. Questa cosa tu non ti saresti mai aspettata che potesse succedere? No, per niente, cioè... Anche ora ancora non ci credo, cioè pensavo fosse stato uno sbaglio che sarebbe comunque tornato presto. Tu Amitis vuoi fare un appello qui da Radio 24, magari anche alle massime autorità italiane, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica, puoi farlo se vuoi. Volevo chiedere alle autorità e al governo di aiutarci il più possibile. E per farlo ritornare a casa e per sospendere la condanna, perché comunque non è giusto che succeda una cosa così a una persona che non ha fatto niente. Questo è l'appello della figlia del professor Jalali, condannato a morte in Iran. Perché parla in italiano, l'abbiamo detto, perché ha insegnato tanti anni in Italia. Chissà se arriverà e se giungerà alle orecchie di qualcuno. La prima ora dei Funamboli finisce qui, ma Veronica, ci ritroviamo tra poco, dopo il giornale radio. Yes. State con noi. I Funamboli. A me fanno incazzare quelli che viaggiano sull'autostrada impegnando la corsia centrale e non si spostano nemmeno se gli lampeggi, se i tir li superano a destra. Veronica, ti riassumo io. Donnarumma è quello che quest'estate non è riuscito a prendere il diploma di ragioneria. Pensa a te. Non è riuscito, non ha voluto. Io comunque, però vedi, questa è una sintesi che ho capito. Facile, diretta, io però ho capito. Un po' parziale, non è riuscito, non ha voluto. Sì, non si sentiva preparato. Adesso mi riconfondi. È stato chiaro, lasciami così. Invece di presentare, prima ha fatto slittare l'esame. E poi, invece di presentarsi, è andato a Ibiza con l'aereo di Mino Raiola, il suo procuratore, dicendo no, scusate, perché? Non sono pronto, vado a Ibiza. Io dovevo sapere chi era Mino Raiola, no? Beh, Mino Raiola, ragazzi, cioè, se segui un po' il calcio, Mino Raiola. Beh, ecco, come lo ha definito? Ti sei risposto da solo. Definizione di Zlatan Ibrahimovic di Mino... Conosci Ibrahimovic? Vabbè, di Mino Raiola. Compagni di merende che siamo. Era il suo procuratore, Zlatan Ibrahimovic l'ha definito uno gnomo ciccione. Mino Raiola. Questo è stato un gnomo ciccione. Devo googolarlo? Sì, fai Ibrahimovic, gnomo ciccione, Raiola. No, volevo sapere se Raiola, devo googolare le foto per vedere se è gnomo ciccione. Dai, Mino Raiola, fai su Google foto. Gnomo ciccione. Comunque il nostro ascoltatore si mangia tutto il cibo che avanza nelle mense. Sì, il nostro ascoltatore ha fatto una polemica sterile perfetta. Ditta, sì, quelli che in auto. Anch'io, guarda, sul traffico sto diventando. Oggi ne ho trovati un paio che impegnavano l'incrocio nel mezzo ed era verde per me. Volevo scendere con una chiave inglese e sfondargli tutti i vetri. Però sapevo che poi avrei avuto la peggio e quindi non, allora, non l'ho fatto. Non l'ho fatto, solo per quello. Solo per temi quello. Sempre l'estrazione all'improvviso della mazza da baseball. Solo tu, per eh? Quello. Ma devo dire che, tra l'altro, stare in corsia centrale in autostrada quando c'è una corsia a destra più libera è multa con credo 2 punti dalla patente. Ma non ho mai visto nessuno, tutti lì a 100 all'ora. Quindi, col cappello in mano. 100 all'ora. E poi cosa puoi succede? Cominciare a chiamare i vigili e segnalarlo tu. Che i pazzi poi sorpassano a destra. Vietato anche quello. È vietato, ma se è, portato alla disperazione uno da uno. Ma 100 all'ora che... in mezzo, 2 punti da togliere. Ma tu non hai mai pensato a un format in cui tu da solo, tipo flusso di coscienza, ma no, ma già, tiri ma giù tutti gli improperi? Ma già Joelle Dix ha fatto tutte le cose sue, l'ha fatta in maniera straordinaria sull'automobilista. Come una bestia. No, io non volevo circoscriverti solo a quell'ambito. Io ti lasciavo uno spazio, una rosa più ampia sulle polemiche perpetue che imperversano nella tua vita. Senti Luca da Cagliari che si chiama. Luca, buongiorno. Alle 10:10, eccoci. Buongiorno a voi e complimenti per un programma che ogni tanto dice qualcosa di non banale. Bene. Grazie Luca. A lei allora, complimenti per Cagliari invece, perché ha una grande passione. Va bene. Oggi ci sono anche 16 gradi, si sta ecco, bene. Ecco, 16 gradi, una grande passione. Mamma mia che invidia, 16 Per noi il riscaldamento lo accendiamo un'oretta la mattina. Tutto per dovremmo superare. Tornare a dare le temperature. Tra... Vabbè, questa è un'altra vicenda, questa. Magari ci pensiamo. Luca, prego. Allora, io opero nel settore del gioco da molti anni. Sì. E volevo dare alcune controinformazioni a quelle che sono state date in questi giorni, questa mattina, scusate. Sì, ci dica. La ludopatia è vera, esiste ed è certa. E per quelli che operano nel settore del gioco è un problema. Può sembrare una roba contraria, diciamo, uno gioca tanti soldi, quindi per noi guadagniamo tanto. No, per noi è un problema la ludopatia. Mm. Però c'è da dire una cosa. Che da che punto di vista? È un problema perché ci crea per noi tutto questo movimento che c'è attorno, che noi non vogliamo. Noi vogliamo stare sereni, vogliamo lavorare, perché noi siamo degli operatori terzi dello Stato, cioè noi lavoriamo con i soldi dello Stato, questi in pochi lo sanno. Noi non tocchiamo, non usiamo soldi, cioè quei soldi che vengono giocati sono dello Stato. Sì. Noi siamo dipendenti dello Stato, nel vero senso della parola, quindi non muoviamo soldi. Ok, perfetto. Conseguenza, noi facciamo semplicemente quello che lo Stato ci dice di fare. Sì. Ok? Lo facciamo nel modo più corretto possibile, perché le leggi che noi usiamo, noi abbiamo dei paletti, dei vincoli che sono mostruosi. Se uno avesse la voglia di inserirsi, di vedere come funziona questo settore, ne rimarrebbe veramente sconvolto. Siamo diventati il bancomat dello Stato. E questo infatti, Luca, però l'abbiamo detto, ogni tanto lo Stato, quando non sa fare cassa su qualcosa, quando ha finito di mettere le accise sulla benzina, le accise su aumentare le sigarette, aumentare, ogni tanto va dal gioco d'azzardo legalizzato, dal sistema e mette una tassetta. Questo sì, ma l'abbiamo detto, lo Stato è così. Però insomma, dici, le cifre sono un po' esagerate, la ludopatia, sì. Anch'io credo che, e l'abbiamo detto, non è che tutti quelli che entrano prima a giocare poi finiscono nella ludopatia, se no si dice... questo bilancio di cui abbiamo parlato non sono tutti ludopatici, no, c'è chiaro, c'è no, chi gioca perché fa vuol lo giocare. Stesso errore quando si dice inizi dallo spinello e finisci nell'eroina, sicuramente, non è così, non è un'associazione automatica di qualsiasi dipendenza. No, c'è una deriva di questa del gioco che poi appunto diventa una dipendenza. Vedi che però già subito molti mi redarguiscono, allora mi dicono, ebbene, io non lo sapevo, quindi mi devo adeguare, che non è illegale passare a destra in autostrada se non cambi corsia, non devi fare la gincana ovviamente, ma se sei a destra e sei nella legalità e quello in mezzo invece è nella illegalità, tra l'altro non sono 2 ma 4 punti che perde dalla patente, se perché bisogna viaggiare nella corsia più libera a destra, se stai in mezzo, uomo che guidi col cappello a 100 all'ora in autostrada, è un'infrazione al codice della strada. Tu devi prendere qualche goccina di Lexotan la mattina prima di cominciare la trasmissione. Stai facendo pubblicità occulta? Così non andiamo, forse era, no, non era nemmeno occulta. Poi ne puoi prendere un altro, ti propongo una rosa di tranquillanti varia, di benzodiazepine, che ti aiuteranno a gestire la trasmissione in maniera serafica. Vedi, come mai conosci il principio attivo così bene? Non farti troppe domande. Gianni da avanti. Roma, buongiorno Gianni da Roma. Gianni? Pronto, sì, buongiorno. Buongiorno. Buona giornata a tutti. Senta, volevo avanzare una proposta a favore dei pensionati, sì, i tanto trascurati pensionati, che quando vanno a votare sono circa 14 milioni. Gianni, ma è una proposta o una polemica sterile? Ce lo dica è già una subito. Proposta. Una proposta, ah, okay. Va bene. Praticamente si tratta di anticipare il 50% della tredicesima al 30 giugno. E perché questo? Ah, perché è un grosso vantaggio, perché noi pensionati, per esempio, quando arrivo la tredicesima così tutta intera, è anche insomma troppo, per modo di dire. Invece sarebbe molto utile frazionarla in due parti e averla anticipata a giugno. Sì. Va bene, ma questo perché aiuta sotto estate? Anche per esempio, sì, per le vacanze. Che potrebbe incrementare il turismo. Va bene, è una proposta, certo, lei l'ha lancciata, ma adesso noi che non ce so ne facciamo di questa proposta? Coglierà, cioè, questo appello, che... a chi Ministro possiamo... al lavoro, Poletti, vuoi ascoltare Gianni da Roma? Non lo so. Ma tu dai del tuo al ministro Poletti? No, vabbè, come sì, no, sì, del tu figurativo, vabbè, te la fai ministro con Poletti. Poletti. Te la fai con Dot Inge, ministro illustrissimo Poletti. Gianni da Roma ha lanciato questa proposta, anticipare, che peraltro non è la prima volta che la sento. Però effettivamente, cioè, anticipare il 50% almeno della tredicesima a giugno, così lanciamo il turismo, diamo un po' di soldi affinché ai nostri poi il denaro possa circolare, sì, e muovere il mercato. E poi no, è interessante quello di dire, perché quando arriva tutta insieme un pensionato magari abituato a gestire somme così, è anche troppo, dice Gianni. Va bene, andiamo a sentire il traffico e poi la prossima funambola è con noi. I funamboli. Allora, eccoci qua, 10:17 minuti, siamo in diretta su Radio 24, Veronica, dobbiamo dare il buongiorno alla prossima funambola, una donna coraggiosa, raccontava anche ieri Repubblica, che nel cuore del Parco dei Nebrodi, che poi è l'area naturale più estesa della Sicilia, in Sicilia, in provincia protetta, di Messina, sì. Che sta combattendo a furia di denunce, e si sa che poi in certi casi le denunce poi non è che vengono lasciate così cadere, ma provocano delle conseguenze, la cosiddetta mafia dei pascoli, che è un problema in molte zone dell'Italia, perché la mafia dei pascoli vogliono prendersi letteralmente con la forza i pascoli, poi magari chiedere aiuti e fondi all'Unione Europea, sì, speculare su questo. Magda Scalisi, buongiorno. Buongiorno. Magda Scalisi gestisce il rifugio del parco, siamo a San Fratello, Messina, Parco dei Nebrodi. Esatto. Magda, quanto tempo è che stai in questo spazio, che in questo rifugio? Mi sono trasferita a luglio 2017. Il primo luglio ho fatto un blitz qua al rifugio. Un blitz addirittura. Che vuol dire la mafia dei pascoli e come si manifesta? Cioè, quando sono iniziati i problemi, Magda? I primi problemi sono iniziati con la scomparsa del primo cane, Charlie, a gennaio, e a marzo abbiamo avuto le prime due scrofe, Gina e Carlotta, che mi sono state introdotte qua al rifugio. Mm-hmm. E poi a... Quando dici scomparsa vuol dire che te l'hanno ucciso? Sì, assolutamente, perché qua c'è una cultura diversa sia dei cani che degli animali. Per cui le persone che, intanto qua, le persone che hanno delle pecore, delle mucche o dei maialini non usano mettere i bottoni. Non tutti lo fanno, sono pochissime le aziende, diciamo, che lo fanno. Quindi praticamente loro fanno dei monconi all'orecchio e quindi praticamente scimento dagli allevatori. E siccome i cani spesso rincorrono i maiali o le pecore, loro usano ammazzare gli animali. Ma tutte queste cose sono seguite a delle minacce verbali, a degli avvisi che loro ti hanno dato? Cioè, qual è stata secondo te la dinamica che ha fatto scattare questi gesti? Praticamente mi avevano imposto i prezzi, i menù, tutto il resto. cioè chi? Mi sono stati introdotti oltre una ventina di maiali tutti insieme e poi mi avevano imposto che dovevo fare un menù di pecora, dovevo la gente del posto ecco, sì, definita sì. Così, che vuol dire imporre una cosa, uno come dire è un'imprenditrice e dicevano l'amaro, ah ma quanto costa, 1,50 euro, scusi. Oppure le balle di fieno, se io le compravo a 6 euro più IVA, ovviamente loro mi imponevano che la dovevo rivendere a loro 7 euro comprensivo di IVA. Quindi che la matematica non è un'opinione. Sì. Quindi, che ne so, venivano qua e dicevano, ah, mi compro una bottiglia di Amaro del Capo, quanto costa? E chiedevano ai miei collaboratori, ah, 17,70 euro, vabbè ti do 20 euro, mi sono comprato la bottiglia di Amaro del Capo. Ma tu parli di intimidazioni mafiose più o meno, nel senso di uno... Allora, qua si usa mettere gli animali per fartene andare. Ecco, questa cosa della mafia dei pascoli, come viene definita, ci puoi far capire tecnicamente che cosa significa? Si introducono una quantità innumerevole di animali, ti creano danno, ti distruggono la staccionata, mangiano i rifiuti, spargono insomma rifiuti dovunque, e così diciamo tu sei stanca e poi a senso loro dovresti arrivare al compromesso, a quindi, chiedere il loro aiuto. Conquistano quindi il territorio letteralmente utilizzando gli animali e sfinendo sì, le persone che poi se ne vanno via. I miei fornitori con cui abbiamo fatto rete hanno avuto lo stesso problema, ci sono state introdotte pecore, mucche, e sono quindi aziende agricole e sono aziende di produzione del maialino, e in più praticamente quando io ho chiesto la tracciabilità del maialino è come se avessi chiesto un'eresia, compresa la fattura, qualcuno si è offeso. Tu sei un corpo estraneo fondamentalmente, quindi o ti adegui alle loro regole o è meglio che tu te ne vada, e loro utilizzano tutti i sistemi per fartelo capire. Sì, assolutamente. Sì, il problema è anche questo. No, certo, sono donna. Ecco, questo ci arriviamo perché è interessante. Il problema, per esempio, racconta ieri Repubblica che nei giorni scorsi è stata anche sull'auto blindata di Giuseppe Antoci, che è il presidente del Parco dei Nebrodi, hanno sparato una gragnuola di colpi, cioè non è... Può sembrare quasi raccontata una minaccia bucolica, ma è una minaccia in realtà molto molto concreta, molto forte. Sì, sì. È molto contestualizzata nel tipo di linguaggio, al contesto in cui loro si trovano, però è altrettanto pericolosa e minacciosa. Perché dicevi il fatto che tu sia di Palermo, come incide? Perché mi sento una straniera. Loro vogliono che la gestione sia locale. Rispetto chiaramente a Messina e alla provincia. Sì, io dovrei essere della zona dei Nebrodi per gestire il rifugio. E colpisce anche luogo che sia di Palermo. Certo, colpisce anche un altro aspetto. Dice sono donna, perché quando si rivolgono a te dicono pensano di dover parlare o con un genitore maschio, ovviamente col padre, o un marito o un fratello, immagino. Cioè l'interlocuzione con una donna non è considerata. No, assolutamente. Quando sono arrivata la prima cosa che mi hanno chiesto era solo signore o signorina. Mm-hmm. Per capire chiaramente con chi interfacciarsi al posto tuo, se col papà o col marito. Infatti il fornitore che si è offeso per le fatture ha aspettato mio padre per parlare con lui. Cioè si è offeso nel senso che hai chiesto le fatture e si è offeso, capito? Sì, esatto. L'offesa. E non poteva dire a me che aveva smesso la fornitura, e ha aspettato 2 ore e mezzo che mio padre arrivasse da Palermo per dire che aveva finito la fornitura. Come si rimane lì? Perché mi sembra di capire che sei talmente combattiva che di certo non vuoi recedere, non vuoi fare un passo indietro, e noi tante volte lo diciamo, è facile detto da qui, ma lì poi tutti i giorni come si fa a resistere? Ma io ho i miei cani. Benissimo. Beh, e poi i miei amici mi vengono a trovare, quindi non mi manca per niente la città. No, certo, ma come si fa a resistere non tanto alla città, alle pressioni? No, ma io per fortuna ho l'assistenza delle autorità, sia della polizia che dei carabinieri, e poi ho soprattutto la FAI che mi sta vicino, il presidente Giuseppe Foti e il presidente Scandurra, anche il presidente Antoci, quindi non mi posso lamentare, per qualsiasi problema io chiamo loro. Ho capito, anche però, questo cioè, ha dato fastidio. No, voglio dire, ma anche questo, cioè una ha un sogno, vuole, lascia la città, va a gestire un rifugio e deve considerare normale il fatto che per qualsiasi problema devi chiamare il presidente del parco, i carabinieri, i vigili urbani, la polizia. Cioè non è uno spaccato di normalità, non no. dovrebbe essere uno spaccato di normalità questo, no eh? Esatto, ma che tu sappia altre persone hanno desistito e sono andate via, cioè altre persone che avevano fatto il tuo stesso tentativo precedentemente? No, io ho vinto un bando, quindi non lo so, quelli gestori di prima questo problema non lo avevano, quindi forse finora erano stati tutti abbastanza amalgamati, sì, come dire, a questo esatto. sistema, tutti dentro il sistema. Ho capito. Beh, ci vuol coraggio. Questa è la situazione. Magda Scalisi, noi ti ringraziamo davvero. Grazie a voi. Mi raccomando, insomma, torneremo in qualche modo a farci sì. sentire per a chiedere per, notizie, per sapere novità. Comunque, cari amici, alle 10:26 minuti, sapete che le polemiche sterili continuano. Ce n'è un'altra, Veronica. Questa, i curiosi che creano coda nel traffico, quando c'è un incidente, anch'io li ah, odio. Quelli che si... quelli strano subito... anche questo che tu li odi. No, li odio, lo scrive l'ascoltatore. Ma che è successo? Mi spieghi, che è successo? Rallentano. Sì, sì, sì. Giustamente, no. Devo dire che la maggior parte delle polemiche sterili mi provengono dal traffico. La macchina credo che tiri fuori un po', il no? peggio di noi, il peggio di proprio noi. Perché ci sono quei momenti di insofferenza. Esatto. Comunque, quelli, no? Sappiate che se volete fare la polemica sterile, noi vi ascoltiamo, eh? Amico italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente. Ma perché poi sterilmente? C'è sempre la coda di amarezza, allora, in un'altra maniera. Non ti ascoltiamo sterilmente. No, perché noi. Se noi ci rendessimo operativi e pragmatici, la polemica avrebbe perso tutta la sua sterilità. Certo. Ma per esempio il fatto che noi donne dobbiamo depilarci, ne vogliamo parlare? Cari ascoltate, dobbiamo, perché dobbiamo? Ah, dobbiamo perché la società. Tu sei un amante del pelo. Allora, non siamo esteso. La zanzara. Non siamo la zanzara. Vedi che voi avete un cervello deviato, contorto e perverso. Io parlavo dei peli ma sulle gambe, che uno si mette lì, anche, no, con la ceretta, silk peel, e toglie il pelo. Ma nessuno ti obbliga a farlo. Non lo sta facendo, non sta cominciando a dire libertà, no, ti togli senso, il pelo, no, ti togli il pelo perché è una vero, tua scelta. Capisco la società, la consuetudine. Io spero che adesso le donne, le tue ascoltatrici, partano al linciaggio. Tu lo sai che per esempio in Brasile, io ricordo sì? il mio primo viaggio in Brasile, è consuetudine, non so se adesso sono molto occidentalizzate eccetera, ma anni fa era consuetudine, anche bellissime donne, io ricordo una scena, vedo una bellissima donna, proprio bellissima, comincio dal viso, scendo, il seno stupendo eccetera, era in bikini, scendo, pelazzi di 6 centimetri sulle gambe. E tu li hai trovati sexy però, ho capito. Ma no, è stata una cosa, cioè, è stata una cosa che mi ha fatto deflagrare, ecco, dall'interno. Dopo ammetto, questa tua osservazione ammetto. Dici che noi siamo liberi, voi siete no, liberi, ma è una vostra scelta. Ma è una di consuetudine della società, perché lì era assolutamente accettato così. Infatti, ecco, lei esibiva tutto questo, dal seno alle curve, alle forme, alla bellezza del viso, alle gambe normalmente, cioè, tenute anzi, così. Lì. Il livello di appeal, di sex appeal, era direttamente proporzionale alla lunghezza del bulbo piliforme. Ma certo, anzi probabilmente questa cosa non dava fastidio nella consuetudine del tipico uomo brasiliano. A me, allora io rettifico e dico, ma vogliamo parlare di noi povere donne europee che siamo costrette, resto qui, non mi allargo neanche all'America, che siamo costrette a depilarci? È una polemica lo vedi? Questo era l'emblema, no? Fabio da Milano, buongiorno Fabio, eccoci. Sì, buongiorno. Ci riporta cose più serie. Sì, io avevo chiamato per intervenire sul discorso del gioco. Sì. Allora, io premetto che non seguo il calcio, quindi molto raramente, a parte le partite della nazionale, ma il campionato non lo seguo. L'anno scorso mio figlio ha voluto assistere alla partita della Juve, quindi mi sono connesso a una nota piattaforma per assistere alla partita. Quello che mi ha veramente colpito è che ho visto passare fra jingle e pubblicità delle quattro maggiori piattaforme di gioco online, non esagero, un centinaio i passaggi. Ovviamente è tutto legale, nel senso che alla fine di ogni passaggio veniva detto che il gioco già di tendenza e quant'altro. Perché lì poi bisognerebbe mettersi d'accordo, appunto, Fabio. Se è il gioco d'azzardo legalizzato, perché è legale, le aziende fanno pubblicità. Ovviamente sì, però voglio dire, se tu mi fai passare 100 jingle in una fascia oraria dove assistono anche molti minori, voglio dire, ho dovuto faticare a spiegare a mio figlio di cosa si stava parlando, anche perché non guardando mai il calcio non ha mai visto cose di questo tipo, no? E quindi devi spiegargli di cosa si tratta, che è gioco, che è meglio non farlo, perché tra l'altro io sono un matematico, quindi so benissimo che è tutto perde, costruito per non farti vincere. Però di fronte a dei ragazzi è una cosa piuttosto... Insomma, diciamo, traduciamo in una proposta, non vorrebbe almeno le pubblicità nelle fasce protette cosiddette o nelle... Per me il discorso è un po' più ampio, perché parliamo di ludopatia, no? E poi cosa facciamo? Li addestriamo fin da quando sono giovani. Mia moglie che insegna mi dice che nelle scuole con le varie app il gioco è abitudine, ma voglio dire, se in televisione quando guardo una partita mi vedo 100 jingle, quantomeno mi viene voglia di provare, no? Quindi... Ma guardi Fabio, io capisco, però insomma è legale, e quindi o è legale o non è legale. Se è legale un'azienda fa la pubblicità, però lei dice, però le famiglie, insomma, mettere insieme gli interessi di tutti come al solito non è possibile, diciamo, che non lo so, Veronica, no, dici? È perché questo purtroppo fa sempre parte dell'ambivalenza di cui sopra, per cui lo Stato si pone il problema, finge, anzi in parte tenta anche attraverso delle ordinanze comunali di mettere delle toppe, poi però lo sponsorizza. Ma d'altronde, voglio dire, allora o bianco o nero, allora rendiamolo illegale, e io su questo sono contrario, anch'io non sono proibizionista, abbiamo visto che nella storia il proibizionismo non ha mai portato a nulla, perché no, poi c'è differenza rientra anche illegalmente tra l'illegalità e il fatto che ci sia invece una sponsorizzazione, ma voglio dire, anche però, ossessiva, per esempio, e che ossessivamente si siano diffuse le slot machine in una serie di contesti che sono anche socialmente più a rischio. Sì, però non secondo a caso me si è cercato di circoscriverlo. Demonizzare è sempre sbagliato. In Gran Bretagna, che sono abituati a scommettere anche se tra un'ora piove oppure no, non credo, cioè è una questione di cultura. Io i dati europei non li ho, per cui non so se come sia lì la questione rispetto a questo. Questo bisognerebbe informarsi nel dettaglio e capirlo. Onestamente, fa parte anche un po' dell'attrazione delle persone che vogliono scommettere su qualcosa, peraltro una cosa che non mi appartiene. Però capisco, da padre, a dire un figlio che vede la partita e si vede 100 jingle, a dire, a convincerlo che è una cosa. Ma il discorso, infatti, non è mai il proibizionismo, ma la faccenda è la stessa per l'alcol, o per le sigarette, o per, appunto, invece altra questione, la cannabis, che non è legalizzata, ma legalizzarlo o meno, cioè, sono questioni che sono in una zona limite. In ogni caso, dobbiamo andare a sentire le informazioni sulla borsa, poi parleremo del Natale che si avvicina, dei consigli per evitare il Natale da incubo. I funamboli. Sai che per Natale regalerò il termometro Bellucci al signor Leonardo. Milana, Veronica, stamattina 19 gradi a Pescara. Salutate Milano, saluti, ciao ciao. Milan, allora, anche vendere le sigarette in Italia è legale da sempre, eppure non è permesso fare pubblicità in nessun modo alle sigarette. È così semplice, si vieta di fare pubblicità alle scommesse pur essendo legali. Saranno arrivati 50 messaggi tutti così, e va bene, e io dico va bene, ma al momento è legale fare la pubblicità al gioco d'azzardo legalizzato, come alla superalcolici. Quando sarà illegale? Facciamo una campagna per rendere illegale la pubblicità, non lo so. Sempre noi, a chi ti rivolgi stavolta? Ma non lo so. Quale altro compagno di merenda c'hai tu? Il Parlamento. Chi è il Parlamento? Come si chiama? No. Allora, ovvio. È così. No, è così. Ti prego. Sentiamolo, ascoltiamolo. Brunetta nella sua migliore e la migliore interpretazione. Questa gli irraggiungibile un Golden Globe, se non sbaglio, sì, no? Sì, sì. Potete rimandarla mille volte per me, d'altronde. Possiamo anche andare avanti tutta la trasmissione, comunque, fino alla chiusura. La pubblicità al momento del gioco d'azzardo è legale. Questo è così. Ovvio. È così. Poi continuava, protestate pure, ma è così. Sai quando l'ha detto? Riguarda quando accusò da ministro le dipendenti pubbliche di andare a fare la spesa durante l'orario di lavoro. E ci fu un subbuglio. Ovvio, è così. E ha lasciato che ci fosse un lungo dibattito sul tema, ha permesso obiezioni, certo, no? E che si aprisse la discussione. Da lì ci fu la proposta dei tornelli. È stato lì che sono. Certo. Va bene, perché dai, più brunetta. Si avvicina al Natale. Allora, che noi abbiamo chiamato. Ti fa? Tu sei calmo, sei rilassato. Sono serenissimo. Come la Repubblica di Venezia. Sono serenissimo come la Repubblica di Venezia, perché abbiamo chiamato uno psicologo che non è il nostro professor Janssen, è uno psicologo. È il quindi professor... non ci farà stare bene? No, è uno psicologo. Speriamo. Del buon umore, Terenzio Traisci. Buongiorno, che dispensa consigli su come scongiurare un Natale da incubo. Intanto perché dovrebbe essere da incubo il Natale? Io non lo capisco, Traisci. Buongiorno ridente. Ma allora, dipende da dove ci si focalizza. Su che cosa ci si focalizza, perché a volte si pensa a Natale magari intanto già prima magari del Natale comincia a essere un po' stressante per le corse ai regali o organizzare le cene, tutti i prodromi da Natale. Sì, ecco, vediamo in infatti snoccioliamoli così, i regali. Come si affronta questo dramma esistenziale? Come non cadere nel panico da regalo di Natale? Non farli. Non farli, oppure programmare magari quando farli, perché se uno continua a pensarci e magari ha mille cose da fare e si deve interrompere perché ci pensa, poi viene il dubbio, questa è una fonte di stress. E al contrario, sapere quando devo pensare ai regali, insomma, so qual è il momento in cui mi devo stressare, almeno è preciso. Ed è quello lì. Cioè, tipo un pomeriggio, quel pomeriggio sì. Mi do sui nervi da morire, però insomma faccio tutto e via, i regali. Sì, so che è uno stress programmato e già quello, quando noi abbiamo la percezione di controllo di qualcosa, già quello è un ottimo stratagemma per gestire lo stress e poi di conseguenza anche dare un significato a quei regali, cioè magari... cosa può essere utile alle persone, quindi cominci a pensare magari un po' di più alla persona in sé, non tanto al regalo quanto una cosa che devi fare, ma una cosa che può essere utile. Certo. E quindi quando dai un significato alle cose, in genere ti riconnetti anche... Ma non, insomma, quel regalo, con... non quel regalo che dai una roba di non sapevo che cacchio regalare, beccati no, questo. Quindi... Cioè, no. Però almeno... quello è il risultato appunto di aver fatto le cose di corsa, non avere la lucidità per pensarci. In genere trovare il significato anche nel Natale, anche nelle cose che facciamo, che magari ci potrebbero mettere stress, ci riconnette e ci fa anche tranquillizzare, insomma. Perché spesso si separa l'azione dal significato. Quindi quando mi dimentico il perché faccio una cosa, a cosa serve, chi aiuta... Quindi lei dice una sorta di spirale nevrotica per cui io faccio i regali, non so neanche più cosa sto facendo, per chi, qual è la finalità, ma sono entrato in una specie di cosa convulsa. Veniamo al pranzo di Natale. Come sopravvivere, non ha tanto come digestione... Ci siamo sbrigati così. Come digestione, vabbè, ma sai che abbiamo sempre i tempi serrati. In genere anche a Natale magari si mangia un po' di più, oppure ci si stressa anche per preparare il pranzo, ed è sempre lo stesso discorso, nel senso che magari se mi focalizzo sul significato di quel pranzo, cioè che sto un po' con calma finalmente con la mia famiglia, magari... Capito, ma qua uno si deve focalizzare sul significato di tutto, però uno poi dopo quando si trova tre zie tra i piedi, quattro nipoti, quando si ha a che fare con persone diversamente tombolate, simpatiche, diversamente simpatiche, bello. Ma per esempio tra i consigli pratici non c'è il sottrarsi ad alcuni obblighi sociali del Natale, per no? Esempio, lei questo non lo suggerisce. Veronica è una grande amante della tombola, abbiamo scoperto. Se uno nasce con questo baco, gestisce il Natale benissimo, ma se uno non ha questa turba psichica, psichica, come fa a quello sopravvivere? Di amare alla... la tombola. Perché come... guarda che poi dalla tombola alla ludopatia un attimo. Io esatto. Come fa uno tra Isci se uno non ha questo difetto genetico di amare la tombola? Che sta tara, sì. Quello di sottrarsi potrebbe essere con una buona scusa, magari una scusa simpatica. Potrebbe essere una soluzione. Sì, magari... non puoi dire devo andare a lavorare, ecco. Non... ma magari dipende, trovare... perché adesso a Natale si lavora, come tu mi insegni, no? Smettila. Sì, però magari potrebbe trovare anche il modo di divertirsi insieme alle persone, insomma, trovare la persona con cui va più in sintonia, perché poi non penso che siano capito, tutti, ma uno le zie non è che se le sceglie, negativi. Non è che uno parla con le altre zie, ci saranno anche zie simpatiche, quindi magari influenza ci sarà anche una zia, dice un po' meno simpatiche. Sì, sì. Ma io le volevo fare una domanda un po' più seria, ma per coloro che il Natale lo vivono veramente male invece, per cui evocativamente o perché sono tanti, in un momento particolare, sono coloro a cui genera una tristezza profonda o per vissuti, per trascorsi, qual è un suggerimento invece reale che uno può dare? Ma allora, cioè, il primo suggerimento è quello che ho dato prima per quanto riguarda il significato. Se uno non lo trova, il significato che in genere aiuta è quello di focalizzarsi su qualcuno di esterno, nel senso che se io a Natale, dato che magari ho tristezza perché sono da solo, perché non ho piacere di stare con alcune persone, scelgo io con chi stare, magari vado a dare una mano a chi è solo, chi non ha cibo, chi non ha da passare la tombola insieme ad altri. Quindi in genere se dai qualcosa agli altri, anche a livello di tempo, che è un valore enorme in questi tempi, forse guadagni qualcosa tu. Esatto, no, ma è interessante, interessante quest'ultima considerazione. Forse anche sottrarsi dall'obbligo della felicità a tutti, ecco, i costi, esatto, no? Del dover essere contenti e sereni e lieti e buoni perché è arrivato il dolce Natale, magari può essere un modo di trovarsela in vie alternative, di infliggersi meno aspettative e meno pressioni su se stessi. La ringraziamo Terenzio Traisci, dobbiamo andare al traffico, poi c'è una polemica sterile stupenda che è in attesa, partiamo da Marco e poi altri ascoltatori. Ah, ce n'è un'altra, devo dire una cosa. Sì. Saluto la mia cara amica Valeria che mi scrive: ma cosa ti è successo oggi? Che ti ho sentito, dici, volevi la chiave inglese nel traffico. No, ma è stato un momento così. Non succede niente. Ma è come un giorno di ordinaria follia, Michael Douglas, ma poi rientro in me. Adesso siamo d'accordo con Babba Fusconi che gli mette il Lexotan nella bottiglietta d'acqua. Ancora la pubblicità occulta. Ah, la pubblicità occulta. Io spero che mi chiamino e mi dicano, vabbè, no, niente. Ti mandino il Lexotan. No, una confezione, però che di quelle. Lexotan, no. A Natale c'è una soluzione. I funamboli. Allora, eccoci qua con i WhatsApp. Il top dei top è quando sento alla radio che dicono al traffico che ci sono code da A, code anche sull'altra carreggiata opposta per curiosi. No, io muoio quando sento sta roba, muoio proprio. Sì, curiosi insopportabili. Guarda questo, Veronica, ci scrive su Facebook, sulla pagina Facebook I Funamboli. Sì, che ci dice? Marco, la mia polemica sterile è continuare a scrivere sulla vostra pagina Facebook senza che nessuno citi mai i miei messaggi. Forza, adesso cerchiamo tutti i messaggi di Marco, li andiamo a recuperare a ritroso. Marco! E domani facciamo una puntata proprio ad hoc. Domani, che ovviamente è sabato. Tutta dedicata a Marco, sì. No, dobbiamo dire chi scrive, dove è finito Manera. Oggi Manera ha avuto qualche linea di febbre, niente di grave. Domenica sarà Mattatore al Manzoni di Milano per Platone. 20 voleva 45, essere 20, bello in forma per potersi spogliare, sì, come vi abbiamo promesso. Gli è sfuggito il testosterone un attimo così. Però, insomma, ragazzi, il testosterone, ma secondo me vi siete anche autoconvinti da quando ve l'hanno detto. E per dare prova di virilità, ci racconta, non è malato. C'è Carlo, dice che è malato per far vedere che hai capito. Vabbè, Carlo dalla provincia di Cuneo, buongiorno Carlo, eccoci. Buongiorno, ciao a tutti e a tutti gli ascoltatori. Sì. Che ci dici, Carlo? E io dico che ho una polemica sterile, che è una vita che volevo fare. Oh, finalmente proprio... sono arrivati i funamboli, finalmente. La ce l'aveva lì, prego. E riterei opportuno farla in diretta. Mi rivolgo a tutti quei automobilisti, sì, l'avete un po' suggerita voi prima quando avete parlato del traffico, a tutti quegli automobilisti che creano delle code infinite. Io questi li chiamo i ciuccia marmitte. nel senso che si mettono uno dietro l'altro, si ciucciano la marmita e non permettono a nessuno di superare. E quindi è sì, che una poi cosa... è pericolosissimo, cioè la distanza di sicurezza è una delle regole fondamentali da mantenere. Esatto, è proprio quello che intendevo evidenziare, cioè insomma se uno non se la sente di superare, laddove ormai è, ci sono talmente tanti pochi spazi per poterlo fare e ritiene di non faccia il ciuccia marmite, ecco, non faccia il ciuccia marmite, ciuccia marmite lo mettiamo tra gli improperi, perché il nostro Carlo, che invece supera in maniera dove si può eccetera, però poi può rientrare se c'è un ciuccia marmite, come fa a rientrare? Non può rientrare, anzi se c'è una signora qua non voglio insomma dillo che guidano peggio, dillo addirittura, dillo. Manco contro l'altra macchina proprio per dire ecco, vedi, non hai rientri. Fatto quello che io non volevo fare. Schiantati. E adesso stai lì e sbatti contro l'altro camion che arriva contro mano. No, è una cosa dillo Carlo, questa è la vera cosa che vuoi dire da anni, dillo Carlo, che le donne guidano peggio, dillo, ce l'hai dentro, tiralo fuori da te. Alessandro Milan, non hai bisogno di farlo dire a lui per dirlo tu. Va bene, dai. C'è Paolo. Non c'è bisogno. Ma il ciuccia marmitte, secondo te, è anche un feticista? È una tipologia di No? C'è Paolo dalla provincia di Ferrara. No, non credo. Paolo, da buongiorno. Credo. Ferrara. Buongiorno a lei. Eccoci. La mia polemica sterile è questa: vietare il transito dei camper il fine settimana. Che con loro. Ma poi sì, che vanno piano, fa? Che guardano il panorama. E noi che abbiamo fretta. Ma perché lei ha fretta al fine settimana? Quando Paolo sente delle persone esaurite come lui rispetto alla fretta, guarda com'è contento, com'è? Paolo, l'ho com'è? Fatto felice. No, aspetta, fatto. Perché io me la figuravo già. Com'è che sono i guidatori di camper? Me lo ridica. Ci faccia la voce. Le lumachine, sono delle lumachine, guardano il panorama, contenti, così. Poetici. Belli. E specialmente nei weekend lunghi, che uno ha fretta e deve andare a lavorare, questi tutti in fila, uno con l'altro. Contenti. Che sono così romantici. Esatto. Paolo, ma non sai come l'ha fatto con tanto allegri, ride, allegri, cantano le canzoncine. Esatto, poi guardano fuori, ti salutano. E tu gli auguri tutti i mali del mondo. No, Paolo, no. Va bene, è una polemica sterile bellissima questa, va bene. Allora, Veronica, dobbiamo dire questo, dobbiamo fare un annuncio. A Natale noi ci fermeremo dal 23 fino all'8 gennaio. E sai che qua arriveranno tante proteste. No, ci sarà il meglio dei funamboli, il meglio dei funamboli per tutti coloro a trovarlo, no, per tutti coloro che protesteranno, noi manderemo in loop il nostro Brunetta. E anzi, oggi vogliamo chiudere la trasmissione così. Assolutamente d'accordo. Allora, ripetiamo qual è il concetto. Sì. Noi purtroppo ci fermeremo dal 20. Purtroppo. No, purtroppo per chi vorrà protestare ci fermeremo dal 23 all'8 gennaio. Esatto. Con il però ci sarà il meglio dei funamboli. Ma ci sarà il meglio di funamboli. Voi volete protestare? Ovvio. È così. Protestate pure, ma è così. Se non vogliamo riconoscere la realtà, allora è così.